Vieni, belli.

sì signore. Ubriaco, ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Perché dunque poco in sé, che dal vino casca già il tutor, credete a me, il tutor si fiderà. Il tutor, credete, credete a me, il tutor si fiderà. Che invenzione, che invenzione, per il cuore! Che invenzione, che invenzione, per il cuore! Che invenzione, che invenzione, per il bella, bella, bella, bella, bella, in verità! Sì, sì, che invenzione, che invenzione, per il bella, bella, bella, bella, bella, bella, in verità! Che invenzione, bella, bella, in verità! Che invenzione, bella, bella, in verità! Il meglio mi scordavo. Sì? Dimmi un po' la tua bottega per trovarti dove sta. La bottega non si sbaglia, guardi bene, eccola. Numero 15, a mano manca, 4 gradini, facciata bianca, 5 parrucche, nella vetrina, sopra un tarpello, fumata fina, costre in azzurro, alla moderna, vede l'insegna, una lanterna, rosa in sapollo, i troverà, 5 parrucche, nella vetrina, sopra un tarpello, fumata fina, costre in azzurro, alla moderna, vede l'insegna, una lanterna, la senza fallo, la senza fallo, la senza fallo mi troverà. Cinque parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito, or vada presto. Tu guarda bene, io penso al resto. Di te mi fido, ora l'attendo. Mio caro Figaro, intendo, intendo. Porterò me con la borsa piena. Sì, quel che vuoi, ma il resto poi. Così dubiti che bene andrò, che bene andrò. Ma che d'amore la chiama io sento, e voce di giù, e si consento. D'ardore insolito questa l'accende, e di me stesso, ma dormi qua. Delle monete, del suo già sento. Ma che d'amore, già viene l'oro, già viene l'argento, già viene l'oro, già viene l'unzio di Dio, già viene l'argento, già viene l'argento. E di come, ecco, già si accende, ecco, ecco, picchio, insomma, questa mi scende. D'ardore insolito, questa notte, già viene l'oro, già viene l'oro, di me stesso, di me stesso, mi fa, già viene l'oro, già viene l'oro, di me stesso, ma mi fa. Numero 15, facciata bianca, 5 parrucche, alla moderna, che per l'insegna, una lanterna, 5 parrucche, nella vetrina, Thank you. mi lascio reggere, mi fa guidare, mi fa guidare. Ma se mi fa il mio debole, sarò la fine da sano. E cento capi prima di gemere, farò giocare. Fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiavazzo va crescendo. Prende forza poco a poco, vola già di lotto in loco. Sempre il cuore, un lotto in testa, cielo, sempre il campo, testa. Fatti schianto, troppo l'anno, e ti fanno l'orce l'anno. Poi la finta bocca sogna, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. Un tremoto temporale, un tremoto temporale, un comando generale che fa l'aria di un mare. Un tremoto temporale, un tremoto temporale, un comando generale.

da costei di malizia potenza. Non parlate, vi ostinate. So benin quel che ho da far, so benin quel che ho da far. Signorino, un'altra volta quando vado da fuori, signorino, un'altra volta quando vado da fuori, la consegna se vittoria sua volta si saprà. Signorino, un'altra volta quando vado da fuori, signorino, un'altra volta quando vado da fuori, la consegna se vittoria sua volta si saprà. E non sembra di morta, sta pulla catamorta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la catamorta. Questo fuori quella porta, questo fuori quella porta, nemmellare, nemmellare, nemmellare, potrà. Però sulle innocentina, sconsolata, disperata, e non c'erano le forze, volta con la gatta volta, questa è la porta, nemmellare, nemmellare, e sulle innocentina, e non c'è innocentina, sono la disperata, e non c'è la disperata, sono la disperata, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica quale, dica signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna di vittoria, insomma, lo saprà. Signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna di vittoria, insomma, lo saprà. E non sembra di smorto, sa pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Questo è quella porta, questo è tutto quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, la porta, nemellare, nemellare, Rosina innocentina, consolata, disperata, me lo sembra le smorfie, faccio più la gatta morta, che è da quella parda, e me la levo tra, e non viene la sentina, e non viene la sentina, non sono la mia sperata, non sono la mia sperata, non sono la mia sperata, non sono la mia sperata, non sono la mia sperata, non sono la mia sperata. Un dottor della mia sorte non si lascia in finocchia, no, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in finocchia, e non si inventa sentita consolata, disperata, di sua cantera ferrata, di mia voglia star con la, di mia voglia star con la, di mia voglia star con la, di mia voglia star con la, di mia voglia star con la, si star con la, si star con la, si star con la. Oh, respira. guardato un barbatopolo, guardato un barbatopolo, sembra una scala di pina, sembra una scala tua, scala d'arrivesa, sta per strepolo. Poverello,